I want to start with the truth that is too rarely told. La verità raccontata troppo di rado, di cui parla Kofi Annan, è quella di un continente, l'Africa, che non è solo malattie e conflitti, ma anche crescita economica tangibile. Nero su bianco, i dati spiccano dal primo rapporto sullo sviluppo dell'Africa, presentato ieri a Londra dall'Africa Progress Panel, un gruppo che comprende anche Bob Geldof e Tony Blair. Nel 2007 il tasso di crescita dell'Africa ha raggiunto il 6%, la povertà è diminuita di 6 punti percentuali dal 2000, in calo anche la mortalità minorile. The food crisis threatens to... Ma decenni di progressi economici potrebbero ora essere totalmente vanificati dalla crisi del prezzo del cibo, un problema mondiale che affligge 100 milioni di persone, con 21 dei 37 paesi maggiormente colpiti proprio in Africa. L'allerta è stato lanciato dallo stesso Annan, che in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles e del G8 in Giappone ha lanciato un appello. Occorre aumentare la quantità del cibo sui mercati, ripensare le politiche agricole, i paesi del G8 devono aumentare i fondi per le fonti rinnovabili in Africa. Ai paesi del G8 un invito urgente a fornire tempi certi e trasparenza nei finanziamenti. Il rapporto rivela che per tenere fede alla promessa siglata 3 anni fa a Gleneagle, ovvero il raddoppio degli aiuti economici entro il 2010, mancano all'appello ancora 40 miliardi di dollari. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra.